avanti. Come va? Tutto ok, diceva quello. C'è il cane che stava abbaiando. Ma ho capito, il cane stava abbaiando. Eia! E non si capiva un tubo che mi sono messo per modularla. Quando si mette a abbaiare va malato sul cane. Ah, vabbè, ci sarà qualcuno di vicino magari che è entrato lì nella via. Oh, chissà cosa vuole, perché è vicino a me e chissà cosa vuole. A che va? E fermo se vai dentro a me, boh. E fermo aspettando a te. Cazzo, non è che sa bene cosa vuole. Sì, gliel'ho detto, ma sei stato zitto. Mi preoccupo, cosa ne so, magari ti conosce, ti vuole salutare, cosa ne so io, tu non lo conosci. Il cane mio è... Camerino? Il cane mio è il mio cane. Ah, io ho capito che c'è un tipo sotto casa tua che in pratica ti stava prendendo le balle, il cane abbaia, e... Lui non si muove perché... Vabbè, tu scendi, cosa ne sta per voi? Stava abbaiando senza motivo, boh. Cioè, senza motivo non è. O c'è qualcuno giù? Ma ci sarà qualcuno giù che si sta aspettando magari qualcuno, cosa ne so io, o qualcuno. Sì, come si avvicina a qualcuno subito abbaia. Vabbè, anche tu mi è uguale, me, non ti preoccupare. Come preciso, il cane Giovanni invece il male in mano, quello è andato lì, quello è una cosa diversa, quello ha fatto in quarta, il tipo si piace perché già stava tentando a uno l'altro giorno, a me mi stava mezzo violentando, hai visto le cose, le... Rasmus. Sì, a te Antonio. Sono qua. Ma tu oggi non è entrata, anima viva. Vabbè, oggi. Magari stavo facendo roba, non lo so. Io mi sono beccato, come si chiama, da piazza stamattina, lì quella non esiste più, e quindi sono dovuto andare a Monsalvato a farmi l'iscrizione, capito, torna. È venuto di aglio, capito? Sì, ho capito. Iscrizione, iscrizione un cazzo, anche perché in pratica non c'è nessuno, mi ha detto di... non i vigilanti, stavo piano, gente normale, i vigilanti, cioè i vigilanti per conto di dire, vabbè, dice in pratica che non c'erano assenze sociali, invece erano dentro, hai capito? Solo che ancora vogliamo farci le fede fino a sede della Befana, hai capito? Oh yeah. È un altro. L'iscrizione dov'è che la dovevi fare, Antonio? Che non ho capito, c'era mia moglie e papi denti. L'iscrizione in pratica nuova devo farla a Monserrato, perché Vianzala e poi da lì lassù mi sembra per un anno, non di più, e dopodiché finito il contratto, attaccati a Pisello, Antonello, hai capito? Sì, ho capito. E quindi sono andato a Monserrato stasera, alle 3:30. La pianta è entrata che mi hanno detto di lì. Ma lui mi ha fatto dire, vabbè, la chiamerà qualche assistenza sociale, mi ha detto. Mi ha detto, guarda che è quello che ci ha voluto, mi ha detto, ma ha mollato perché gli è finito il contratto, tutto lì. Dice, allora dice, la chiamerà un'assistenza sociale di qua, e io vado giù, ma di tu. Magari gli ho detto. Da qui mi hanno mandato a far culo, ho detto in Viazzano, non ho capito, ho detto se mi chiamano qua. È tutto un casino, è sempre così. Già lo so, guarda, non vedo la guarda di farmi quelle due visite, le ultime due visite, quella cervello, quella come si chiama, l'altra, consigliare tutto e fare portare immediatamente la domanda come si chiama, la 104, e poi se la trovo nel culo loro e quanto vogliono, devo stare cazzo così a girarmi i coglioni cazzo per queste storie cazzo, ma ce la fai cazzo. E non dirlo a me che le ho già fatte quelle storie. È un macello. Io me ne sono accorto infatti che è un macello. Quindi me ne sono capitato subito. Adesso sono da un ospedale all'altro, da una visita all'altra, ma va, qua, la di mi rompo i cazzi e non ando più a lungo. Come fai? A te sono da un ospedale all'altro, perché devo fare la visita alla cervella, poi la visita di qua, la visita di là, cazzo. A un certo punto ne avevo 4 o 5, ne ho... per la pensione, capito? Sì, già lo so, però io è per la salute che sto facendo queste visite qua. Sono sempre da... adesso non so quante visite devo fare ancora, ma vaffanguala. Faccio quella che debba stare in vista, da poi torremo a fare ciò che bisogna fare. Pronto soccorso, tutto serrato, e quindi preparate la linea, ma lo stesso, c'è il Covid, c'è quello, c'è quell'altro, quindi i medici se ne vanno tutti a far culo, se ne vanno tutti in pensione, e quindi a un certo punto le pratiche magari che tu hai inoltrato passeranno ai nuovi, e dove fai tutto da capo, il discorso è quello. Sì, ma chi sono io, se mi dici mi lei all'altro, e va bene, e non vado, non posso nessuna visita, a sai tu, a non andarmi lì, a nessun luogo, a un modo come si cavani. Hai visto comunque, a chi è, dice, ma dico bene, fate un pigliato in berghiera, Natali, andate a pronto soccorso. Dice, ascolti, ma lei fa abuso di alcol? Sì, certo che faccio abuso di alcol, va bene? Te lo scrivono, poi vai a come si chiama e immediatamente ti danno il reddito di inclusione sociale, senza passare manco per l'ISE. Ah, ti sei alcolizzato? Ehi, perché sei alcolizzato? Sì, bravo, così bisogna fare. Ah, lo dico una persona, andai, embriaco, pratico, gli dico, andà, e così li dà di neabilizione. Anche sto dicendo, l'ho detto, una sua volta l'ho detto, cazzo, a un certo punto, per non avere, cioè in pratica per avere il reddito di coesione sociale, in pratica non ti serve visa, non ti serve niente, immediatamente ti danno le ricorse, hai capito? È come dire, essere drogato, immediatamente ti danno i soldi per drogarti, no? Come facevano una volta quando abbiamo lavorato noi, tale uguale, che si facevano ti ricordi, arrivavano alle 9:15 e ci vediamo dopo che mi sono portato la birra, e poi andavano direttamente in banca, si ritiravano i soldi e noi la pigliavamo in culo. Tu ti metti a ridere, ma è così, hai capito? Tu ti metti a ridere, ma è così, cazzo. Tu vedi la gente che adesso furba, sapendo una cosa del genere, dice, guardi, sono andato a pronto soccorso, eccetera, eccetera, io faccio abuso di alcol, da quando, da un mese e mezzo, un mese, due mesi, quelli che sono tre mesi, e quanto ne bevo? Mi bevo, come gli posso dire, due litri di birra al giorno, oppure un boccione di birra al giorno, quindi sono già molto ubriaco. Perché cosa? Perché sono depresso, non c'ho i soldi dello Stato, e anche tu gli hai i soldi immediatamente, capito, per campare, se no lì e vedi gente cazzo fuori. Antonio, se mandati bene. Mettiti a ridere, cazzo, te lo sto dicendo, cazzo, così. Guardati il decreto. E tu vedrai la scena. Ma lo so che io ti sto ridendo per quello, perché lo so che è così. Hai capito? Io devo farmi vite, devo farmi il coso, devo farmi quell'altro, eccetera, eccetera. Però a un certo punto posso prendermi il coso principale, a un certo punto. Guarda che io sono faccio abuso di alcol e quindi mi serve il vino tutti i giorni, la birra tutti i giorni, a un certo punto. Fatemi qualcosa, immediatamente voglio i soldi, se no vedo e faccio quello che c'è, a un certo punto. Grazie a me, di vecchia. È proprio così, cazzo. Io mi ero trovato un culo insieme a te, se ti ricordi bene. Ci avevamo fatto il culo tutti e due. Hai capito? Quando lui ce l'è, mi raccomando, ci vediamo sulle 9. Appena tra mezz'ora vengo, vi porto una birra. Col cazzo la vedevi la birra. La vedevi a lui bello tranquillo, cazzo, alla cosa, al banco, ma tra lui credo di casa di hanno sei soldi, allora il furbo data la giurito. Infatti ho detto a tuttore, a quello là, e da un tempo ho detto faccio anch'io così, gli ho detto scusa, a un certo punto, cosa mi devo con vedere un culo, io mi faccio il culo, cazzo, vanno nelle scuole, taglio, cazzo, l'erba, quello che è, eccetera, eccetera, perché mi piace lavorare, cosa del genere, Andando lì, nelle scuole era un casino, già te lo ricordi, tutti quei tronchi, cazzo, che ti entravano dentro le dita, finché non sono entrato poi alla, non ti posso dire, alla, lì alla, all'ippodromo, e stavo bene, la verità stavo bene, ci aveva messo anche la firma, non sono l'altro. Sì, ero grido, le macchine a meno che travagliava, me non hai compreso. Cazzo, roba di culo mi ho fatto e dopo, come finiva il contratto, cazzo, un calcio in culo e via. Già lo so, ma io di poco la verità stavo bene. Mi facevo il mio lavoro la mattina insieme a un collega, che era bravo, la verità eravamo in due. Ci facevamo il lavoro in due, incominciavo la mattina, io pigliavo quello, pigliavo uno, pigliavo quell'altro, ci organizzavo il lavoro, poi verso le 11:30 andavamo al circolo che c'è lì, di quei ragazzi che giocano a... aspetta. Come si dice? Ah, non mi viene in mente a me. C'è la amnesia a casa, la vita adatta a casa, a un certo punto. Non mi viene in mente, adesso, magari mi viene in mente dopo, c'è il suo punto della lingua, ce l'ho. Dunque mi sono divertito, alle 10:30 andavo lì, andavamo in due, c'era la birra, quello che... capo da tennis, adesso vi ho detto, visto? C'era il tennis lì, ragazze buone, cazzo, tutte mi ricordano, cazzo. E allora, tu ti guardavi il panorama, così è? Allora, guardavo il panorama, c'era la birra, costava cazzo, allora, 1 euro e... 1,20 euro, una cosa del genere. Invece, cazzo, la birra va, 2,50 euro, 4 euro. Ah, io ho trovato, ce la fai, allora, per dire, io devo dire, cicco, ce ne vamo giù, laggiù. Poi, prendevo e passavo a Carlo, la verità. Vedevo la birra a Carlo, poi, pigliavo il tram, la 4, la 7, quello che passava per non stare con la 25 a fare la passeggiata fine frenata, è stato bellissimo la vita qua, tutti i giorni. Io stavo tranquillo, felice, eccetera, eccetera, non facevo il mio lavoro, cioè, e com'è? Guardate, il mio giardino, tanto per dire, me lo gestisco io, capito? L'ipodromo, tanto facevo tutte le mattine, facevo tutto il giro, poi andavo a raccogliere la capa e buttavano le ragazze, poi avevano fatto come si chiama, andava a raccogliere tutta la mondetta, ma non me ne fregava niente, la stava a lavorare, non me ne fregava tutto nulla. Magari a trovare i posti così, cazzo. Io mi sono fatto sempre il culo, vai, in Aravona. Le voci erano false e ti sono stati... Ma non ne devo, né per me né per lo so. Purtroppo è capitato che in pratica la gestione che aveva quel signore lì, dopo che sono andato via io, dopo 2 mesi era fallito, capito? Se no... mi voleva, dice, non sei andato lei, dice, ti volevi con me, mi ha detto, mi ha detto, non dico al comune, mi ha detto, dice, purtroppo, dice, mi scade fa poco il coso e non me lo rinnovano, mi ha detto, dice, mi dispiace, però se non ti avrei preso il fisso per letto, perché lavori veramente bene, poi c'erano quelli che andavano a capo il coso e... in cassa integrazione andavano con a riempirsi in cassa là, nel cassa della birra se ne nascondevano dentro il capannone, hai capito? E sempre, ogni estate a cassa, una cassa di birra, mattina, una di mattina e una di sera. Fanno sbagliare. Beati loro, beati loro. Non posso dire niente, beati loro. Se potevano fare. I cassi integrati erano lì, hai capito? Cassa integrazione. Quindi li hanno messi lì a lavorare, usavano il marittucco, cazzo, prendevano e caricavano il cassa della birra. Allora faccia di canno pure. La circola prendeva l'omino da casa della birra, non dal bar, la circola, il bar va appena aperto. E tutti i giorni, avevano pagato, mi ricordo, un euro e qualche cosa. Appena si è alzato, fatto io, aveva trovato, vai, fa la cosa, te li dico ancora una birra, vai. Se vieni a vai, rumani tu a buttarti la gaccia di la birra. Dentro la mettevano, dentro, all'interno. Tu la scendevano giù, c'è un capannone, c'era. Ma c'è tuttora il capannone, la mettevano di là dentro e l'estate se la bevevano, capito? Una cassa di birra alla lì. Cazzo, iaia. Il cane vuole qualcosa, aspetta. Ia. Cazzo, la fetta biscottata voleva il cane. Ha visto a me mangiando quelle integrali, quanti quasi una piazzillino risolvo. Guarda che il prossimo se ne è andato questa mattina. La vita mangiando la, come si chiama, la... gli occhietti, la vita, la vita è tenuta al piatto di Simona. Non l'ho messo nel piatto normale, non l'ho mangiato. Allora sono andato a Rossi e gli ho comprato quelle scatolette di porco e tacchino. Sto dicendo, cazzo, che mi ha pigliato cosa? La fetta biscottata integrale, mi di quelle integrali. È pure una magnata. Ma dimmi tu, come fa a piacere una cosa del genere? Perché è geloso, se io mangio... mi sa che deve essere la persona sorrenta. Non potrò più fare così. E questo è il video che ho fatto il giorno di Natale con il cane di Giovanna. Quando mi sono seduto a mangiare con Giampiero. Se si vuol dire che ho cominciato a lottarmi in testa, ma in fronte. Ci ho avuto buttato in terra sulla fede a me. Solo che riuscivo proprio a toglierlo. Capisci gioco, mi sa che passo quel portatile, anche quel vestito dormito. Sei regolato, devo capire che tu non capisci. Scappa, c'è la camera da letto, c'è la... momento. Non hai capito? Che c'è la camera da letto. Ah, vabbè. Ma come se avrei camera da letto, non sono una cosa, perché in camera da letto io ho il televisore quello grande, c'è Simona, quindi figura di più, a un certo punto, non l'ho mai piazzata, anche quando c'è il frigo, il marachetto lo uso in cucina, in camera da letto niente. No, io ce l'ho già, c'ho un portatile, lo metto dentro il comodino, quando mi serve prendo l'attacco all'antennacqua, prendo il portatile, vado lì e via, capito? Oh, bene. Poi questi giorni non c'ero, mi stavo lavorando, stavo. Ho visto il filmato ieri, non so, io credo che sentire, c'è pioggia che ti sei preso. Sì, infatti è successa una cosa, è vero, io ho fatto l'allestimento delle gabue, poi sono venuto a Sassari, ho fatto un carrega, cioè ho fatto tutto l'allestimento, lì c'è stato l'impianto, l'aria. Cazzo, il minimo lo defibrillatore che lo spavento. Meno male che era un capo, è stato sostituito e via. Ma perché ha più butto, capito? Ha più butto anche a Sassari, beh, figurati tu. Ma non più di tanto. Anche io ho fatto di più, si è spento l'impianto, stava cantando il gabue e si è spento l'impianto. Vabbè, io ho capito. Si è toccato. Capito? Logico che immediatamente si stacca, come si chiama, la corrente elettrica, non sei nato, ti piace la corrente elettrica agganciata così, so ci rimane secco, fulminato, quindi si stacca il termico e poi una volta che è asciutto riparte, evidentemente qualche luce d'acqua è entrata qualche presa e si è attaccato tutto. No, hanno dovuto cambiare proprio la ciabatta, cioè quella che andava al palco, hanno dovuto cambiare quella principale, hanno dovuto cambiarlo, cioè un attimo di panico c'è stato, però mi sembra che era uno spezzone, quindi è andata anche bene, è andata. Cazzo, mamma mia, no, a noi non c'è successo niente, è andato tutto liscio, meno male. Perché io insieme a Francesco, lo conosci a Francesco Costa, ci siamo messi a isolare tutto, l'ha messo la pellicola, più gli ho dato la pasta per il nastro isolante, proprio per non entrare nel connettore, per non creare casino, vabbè, c'avevo anche le passa a capo, tutto, e non è successo niente a Sassari, meno male. Ma non piove, bisogna isolare tutto, il discorso è quello. Cosa ne sapevi che piove? Non avevo mica messo più già Sassari così come l'ha fatta alle 10 e mezza alle 11, no? Cazzo, mi è passata l'acqua direi bubu. No, ha fatto lo scruscino, poi basta. Poi meno male che ci ha fatto lavorare, perché poi siamo noi che dobbiamo correre come matti a mettere teloni nei quadri di corrente e tutto. Meno male che abbiamo sempre il baule a portata di mano, che abbiamo sempre, perché dove ci sono tutti i teloni. Infatti, cioè, come arrivo io la mattina a metà a piegare, a fare, cioè se facciamo, per esempio quel montaggio è stato fatto il giorno prima, li copriamo quei teloni, tutta la roba, proprio per non creare, cioè sono quasi corrente, non è proprio le roba, i finali sotto, li abbiamo messi sotto il palco. Però è andata bene, dai. sera. Eh beh, quello sì, quando ci sono persone c'è che c'è la Sassari, perché è Italia. Poi lo sport, come si chiamano, del sindaco, ma se ce la fai, tutti quanti cattolo, senza un velo li ha voluti, ma quello è tutto scemo, ma come, meno male se ne sta andando qua. Il giorno che se ne fa, sai come ringraziano, vanno in chiesa e metto una preghiera, perché non è possibile, questo è tutto scemo questo sindaco che abbiamo preso, fatto un sacco di coglionate, ha fatto, hai capito? Ma coglionate forte ha fatto. Ma era male che l'organizzazione ha funzionato bene, c'è questo qua che si sta interessando molto, si chiama Gian, faccio mi viene il nome, Murru si chiama, questo organizzatore qua, cazzo, c'ha gli attributi, riesce a organizzare tutto, riesce, meno male che sta facendo qualcosa a Sassari, capito, tramite lui hanno portato il placebo giù quest'estate allo stadio, adesso l'hanno portato, c'è sempre lui questo qua, adesso ha portato Reggae Neck in piazza dentro l'Italia, meno male che si sta molto interessando, però tipo l'organizzazione delle ragazze terribili che adesso è andato a Ranghiero, c'è qua a Sassari un po', ci sono dei corsi delle organizzazioni che era un po' di mafia vera, adesso forse le cose sono tornate a posto, forse. Prima c'era quando c'era Pietro Tene, organizzava in discoteca, in piazza, quello che era, faceva tutto lui insieme al suo socio di Paolo di un sacco di anni fa, era in gamba, organizzava tutto lui, andava a prendere le persone in macchina, le portava in albergo, eccetera eccetera, le faceva cantare, poi gli faceva il commissario, poi le accompagnava di nuovo Alghero, faceva tutto lui, faceva. Sai quando una persona è andato io, mi invitava, io non vieni, vieni a quanto c'è questo personaggio famoso, andavo in casa sua, gli Veracoli, e mangiava assieme, ci siamo divertiti parecchio, io ti parlo di tante anni fa, quindi poi è ricaduto tutto. Poi sono andate queste ragazze terribili, eccetera, eccetera, hanno fatto tocca roba a Sassari, capito? Poi c'è provato qualche cosa a fare delle cose, ma erano fesserie più che altro, manifestazioni per missi quello, missi quell'altro, l'ha fatto Daniele Scuncia, insieme alla moglie, poi la figlia Pia ha mollato tutto, capito? Quindi, sei cazzo, portate 120 sedie cazzo di plastica, cazzo, a fame ragazzi, la pesavano i bovi questi cazzo di plastica, pensavo che erano più leggeri, cazzo, portate 10 alla volta, cazzo, non l'ho fatto, ma allora era una cosa diversa ormai, adesso non è più come prima, ma mi sono divertito, poi c'erano i maniaci, si mettevano dietro il palco per le ragazze, si cambiavano, si mettevano in mutandine eccetera eccetera, che si cambiava, e si dovevano vederli, cazzo, con calocchiare, no? Cazzo, non avevamo visto pure noi, ti stavo dicendo, a casa comunque a Ranghiero abbiamo montato, si chiama il K2, si chiama dell'acustica, un impianto da paura abbiamo montato, che suona da paura, suona, anche Piazza Italia non è che, però un po' più ridotto, ma va bene, c'è una bella piazza grande, abbiamo mostrato il nostro DVD e Beccaz, da Zuccavaglia, una testa. E tocca un bel. Certo, ma insomma, non è come i piatti che ci sono le cose, no? Che lo sai, quelli sono a 1000-2000 watt, come quello che c'è a Marini, hai capito? Hai capito? Ma lo sai che è un bel impianto, ma è proprio il filtro, tu mi senti quando sono levato il batte, cazzo, che l'ho messo, appena più della metà l'ho messo, cazzo, che è sceso quello di sopra. A posto, cazzo, che non riesco a dormire, me l'ho fatta. E ti aspetti la finire, ho detto, 2 minuti, ho detto, sto facendo le prove, e poi, ho detto, sto passando subito, ho detto, sono tutti i tricoli, ho detto, poi quando ho detto, un amplificatore che aveva dei problemi. Ma era di lusso, era. Mi sono diventato parecchio lì a Marino. Quel periodo c'era traffico, hai capito? Adesso non c'è più niente. E dopo fermo tutto lì a Marino, mi sembra. Non c'è più discoteca, non c'è più niente, ormai è tutto lusso. Io avevo le discoteche pure a sasso. Sì, quello che avevamo noi lì a Larghero, quello pompava forte, minchia. L'abbiamo noleggiato perché è una cosa così grossa, chi cazzo ce l'ha? Cioè, una cosa, non fare nulla, è molto importante anche. L'abbiamo noleggiato. Certo, ma la pompa della mala sorte è pompa. Ce ne sono di semplice, capita un impianto, cosa del genere, amplificatori, mixer, cosa del genere, piatto luci, tutto, ce ne sono parecchi, ce ne sono. Ti vedi quando c'era un cibino con la lavandriga, cioè abitava la lavandriga e lavorava di semplice, adesso non mi ricordo come si chiama, andava via vicino a via Pulizzetta a ritirare tutto, un camion, capito? C'era il baracchino, avrei adesso non lo più, da parecchio come lo sento, non lo so che fine abbia fatto la verità. Vabbè, stiamo parlando di altri mondi, stiamo parlando, è un pianto che costa 1,5 milioni di euro, quello che ci avevamo in mano noi, un impianto serio, ma serio veramente, l'abbiamo preso da un attimo su in continente, l'abbiamo preso e poi l'abbiamo restituito, ieri l'abbiamo smontato, è un impianto che non è a nessuno in Sardegna di quella cosa, non è a nessuno. Il K2 mi sa che siamo a livello di, cioè K2 e K1 siamo a livello di Gabue, Vasco Rossi, quella roba lì a livello alto. Importa che faccia il suo lavoro, poi a me ne incassate i soldi, è capito. Allora così sta bene, gli altri 52 persone a lavorare con lei, figurati, per fare, mi sembra solo 8-9 mesi di cosa dover fare in tutto il mondo, capito? Lavora mi sembra sui 1.000-1.500 persone, forse 2.000, adesso non mi ricordo bene com'è la questione. Mi ha detto anche lì, facciamo una tappa a tutto il mondo e sono 2.000 persone che ho assunto, mi ha detto, per fare il tour in tutto il mondo. Quindi figurati tu, i servizi e cose del genere, camion, come facciamo il tubo, vabbè, poi lo sai che ci hanno comprato tutto, c'era il camion per i fatti loro, con tutta la documentazione, i servizi, non fanno altro che installare e basta, arrivo lì e a posto, tutta roba loro. Noi abbiamo, è arrivato il bilico, cioè il No, ci hanno lasciato il rimorchio, abbiamo caricato col muletto, vabbè, un po' anche a mano e cose, all'impianto, cioè, hanno scelto tutto col muletto e cose, l'abbiamo piazzato, tirato su. Ci volevano, abbiamo usato due motori da 2000 kg abbiamo usato per tirare sull'impianto. Cazzo, ma mica c'è il motore, cazzo non ha motore, perché doveva essere tirato così. Vabbè, finché c'è il lavoro così, guarda, bisogna approfittarne, il discorso è quello. Se lei va proprio per Covid siamo fregati, quindi è meglio approfittare adesso, mica fare questi tour, le persone, questi bici qua, a me, che si sta bene. Lui dice la prossima estate dovete cambiare tutto, tiriamo tutto di nuovo e siete fregati in pratica. Ma non sono che ci siano serate ogni settimana, ogni mese, quello che è, meno due, tre, a meno guadagnate un po' più di soldi, state bene, se no, ho visto che il Covid sta aumentando, di nuovo, quindi diciamo allora che siamo che punto critico, però si interesserà a persone, nessuno uscirà più di casa, già all'ospedale non si può più andare, già evita che tu hanno anche scritto, quindi a tutto soccorso non ci fai più niente, non si può mai entrare, se non sta male si rimane a casa, va al medico di cura e si fa curare, se ti fai, ti fai il vaccino e buh, se no ti così okay. Ti prende un po' di piante, di cose, di fumo, di fumo di canno e almeno diminuiscono le cose, i dolori. È la gente che fa panico, perché ti fai i gatti dove ti fai. Prendi come si dice. Ti curi, ti prendi la tachipirina e tutto ti passa, basta. Tutti siamo stati malati, pure io sono stato malato da poco, ma io mi sono preso la tachipirina, mi sono curato, quello che dovevo prendere, grazie a Dio sto bene, tutte minchiate, tanti che cose basulli, cioè come, ma vai girami coglioni, non voglio dire parolacce. Ma finiamola, ci sono troppi esibizionisti, finché ci saranno questi sarà sempre peggio, sarà sempre peggio, perché è così, il problema alla fine la cura è quella a me. Ho fatto tre vaccini, l'ultimo vaccino ho fatto male, mi ha bloccato il braccio, capito? Quindi non so più forza, io ho problemi alla cosa, lui. Tanti problemi per la cazzo di vaccino, ma ne ho sofferto io, guarda, avere sincopi, svenimenti di corpo, eccetera, eccetera, mai, potevo pigliarmi in braghiera, magari, e non avevo la testa, adesso, hai capito, succede anche senza bere nulla. Il discorso è quello, e quindi mi sto facendo controllare, sto facendo gli esami e vediamo un pochettino adesso. Non è che posso salire sopra il tetto come facciamo la volta, mi divertivo, salivo sopra il tetto, mi salivo la parabola, eccetera, eccetera, salivo, si levava la scala, adesso non posso più filare. Così posso imparare che mi fa la volta, un altro portato, un cazzo corto, un zengo, ci scendo dal tetto e lui mi trovo l'altro che è morto in strada e basta, senza fare niente. Quindi, purtroppo è così. Purtroppo, cosa vuoi che ti dica? Purtroppo la gente è strana, non ci puoi fare niente. Io mi sono, hanno una febbre subito con chi su cazzo del tampone per dire che io ho il Covid. Ma finì nera, vai. Oppure si inventano anche delle storie, magari non è vero, non è male come il suo gozzo, magari segna male, non rimane vero a molti, ma non andare a travagliare. La fame che l'ha voluta, mica da un montanese l'ha fatto me, e non è neanche vantata poi. Cioè, che hanno dichiarato che va via un po', quindi invece non va via nulla, era a casa, era mandronelli. Ma stiamo scherzando, siamo anche così di quelli, cioè. Ma va. Sì, si ho fatto tanto io, e così. Ma sono la foto aperta immediatamente e dicono cosa hai capito. Sì, mi è piaciuto un punto. L'unica cosa che sa fare lì, di cervicale, purtroppo è... c'è un problema con la parte polare, hai capito? I lavori facevo prima, quando facevo malavare emulatore, prendevo pesi, quindi dovevo piegare, salire sopra le scale, con le scale fino al terzo piano in cantoni con cemento, due come si come si dice lì? Due parti di bombicce, riempi canetta, il cemento salivo su quelli lì, e si è bilanciato, a quella sotto, a terzo piano, poi freddo per questo, il parto è morto, acqua di tutto, e quindi adesso mi sto facendo le conseguenze alla vetta. Quello si paga perché io qui non lavoro leggero, come faccio io dire tutta la tarda di carica di camion, cioè tutto il giorno così mi ero, e sono bauli che non è che pesa neanche di dire un bombolaio, ma vai, finita, vai un bombolaio, sì, è pesante, sì, ti manca aria e cosa. Se provi la roba del service non è leggera, no? Ma uno ti ha detto chili e cose, ma non è anche le ruote, ma molte volte per infilarci uno con l'altro, perché siccome hanno degli intacchi molti, per metterlo uno con l'altro, cioè metti le ruote sopra, cazzo, devi sollevarlo, devi, capito? Chilo, 80 kg, 100 kg, se sei malato che non lo puoi fare, ieri mi ha fatto girare le palle, ma forte però, io dico questo, tu tutti quanti di essere un come si dice, uno scarichino, cioè uno di quelli che, una vita che fa scariche, cosa? Tutti quanti di essere così, vivo pure niente, che non ha problemi di salute. Io ho addirittura, oh, mi fa di fare la spalla, cioè, se non gliel'ha detto tu, non puoi fare questo lavoro, gli ha detto, tranquillamente. Se tu hai problemi di salute così, non puoi fare questi lavori. Cazzo. Cioè, ero un azzurro, credimi, guarda, ma ho fatto, meno male che sono venuti i miei colleghi delle luci, aiutarmi, sono giovanotti come me, sono forti e cose, cioè di cazzo la sera ero gribato, vero? Sto comparando quella nota tambatano perché ero molto stanco, cioè alla fine meno male sono venuti loro, una mano che gli proci della magliette, cazzo gli ho fatto vedere come ci prendeva un sub di quelli, la cazzo gli ho pigliato, cazzo gli ho scaramentato sopra, è un baule. Ho fatto, ma lo vedi che non mi sei, ma vedi che non mi sei buono, non ci sei buono. Ci vuole esperienza, ci vuole, tu c'hai esperienza con le bombole, quindi sai, capito, come in pratica il sistema del peso, capito, bilanciarlo più che altro, che pesa di meno, discorso è così, se al limite se è più pesante bisogna aprirlo per forza in due, non è che puoi fare mazza che scegli più media, no, non esiste, capito, ci si aiuta, se uno lavora così in un servizio si bilancia almeno in due, non è che sia da solo a caricare la i capelli corno, tutto me ne vanno via. Allora, non è roba per molti. E poi io la dietro, ho lavorato da dietro, c'erano questi ragazzi eccezionali, proprio sapevano far lavorare, sapevano il fatto suo. Ho lavorato da Dio, tranquillo, senza incazzarmi. Purtroppo molti. Guarda, da voi che cazzo mi fai? C'è quella cazzo di battuta di merda che mi fai. Gli ho chiesto, vieni qua Antonio, cioè che si chiama con me. Aiutami a scendere nei bauli della regia. Ma tu proprio a me c'ha. Che devo chiamare, scusami, a lavorare? Cioè, guarda, se la buffonete. Vabbè, lascia perdere. Da voi cazzo me ne è giunto, come ti dire. Da voi cazzo, abbasciamo, se no con la ciappa, mi sicuro. Ha detto, ascoltami un attimino, allora ti ho detto, mica se ti metto mano, manco mamma doglia ti conosci più, non mi rompere le balle a me, e tu non mi conosci bene, tu a me, ti faccio un culo. E io mica stavo scherzando, non devi manco scherzare, perché quando si lavora, dopo possiamo dirci quello che vogliamo, quando si travaglia, bisogna mettere la testa, proprio non hanno la mentalità di lavorare, non ce l'hanno. Sì, perché così, ma io quando... quando ho lavorato con il Dio, ci ho separato d'accordo con il collega del lavoro, abbiamo collaborato sempre assieme, ho lavorato sempre bene, mai da solo, cioè, abbiamo diviso i compiti e ho lavorato veramente bene, sempre, in qualsiasi posto, anzi ero io a comandare lui, girare, io facevo quella, se no io il lavoro, purtroppo per dire, però volevamo bene assieme, capito? Poi intanto facciamo pausa, andiamo ci beviamo la birra, andiamo ci beviamo la birra, capito? Mi sono sentito divertito, però che fare ride non è così facile come sembra, capito? Io le ride le ho fatte, mi sono fatto quasi 9.000 euro, mi sono fatto. La verità, ho lavorato veramente bene, mi ha aiutato un culo per farla, la verità, però mi sono divertito, la verità, intanto ci fermavamo, io a me c'era cosa più, mi chiamava il padrone del Caverna, scusa, c'era un carattere di telecamere, era solo con le telecamere cinesi, infatti, che a lui può vedere e anche parlare e ascoltare, quindi prima di arrivare a pranzo, prendevo, lo chiamavo, guarda che sono di nuovo la birra, te la metto nel tavolo, il pranzo è già pronto, allora prendevo, arrivavo e mangiavamo tutti, ci divertivamo, poi lui andava, ci faceva, veniva fino alle 4 insieme all'altro e io mi facevo i piatti. E poi, siccome ho detto voglia di salsa padula, ma io ho detto ascolta, perché li faccio io di casa? Ma perché devi fare tu? Tu fregate, da me passo il tempo, mi facevo i piatti e mi divertivo. Capito? Poi alle 7 alle 8 andavamo al bar, come abbiamo sempre fatto, andavamo a invece la birra e poi andavamo a casa e la mattina dopo alle 7 e mezzo, 8 e mezzo, 4, andavo direttamente lì in campagna e facevo, mi sono fatto tutto l'impianto elettrico, tutto di quello di Corveso, figurati. Io avevo, e quindi mi sono divertito. Poi vabbè, c'era Simona che mi entrava nel bar, eccetera, eccetera, io bisogno che rimani qua, eccetera, e allora ho dovuto provare tutto, se no non avremmo dato niente, questo è poco ma sicuro. Perché ti rompava le palle che andava a lavorare? La sola, capito, e poi non si sentiva bene, eccetera, eccetera, mi telefonava, appena viene, appena non viene, tutti i giorni la stessa cosa. E a un certo punto ho voluto mollare, capito? Ho mollato, allora sono andato a casa e sono cominciati i problemi. Quando ero in campagna non lo mi fa, lavoravo, non avevo nessun sintomo, eccetera. Come mi sono sono tornato due, ho cominciato a avere i sintomi strani e infatti mi sto facendo controllare cosa diavolo c'è. Però tu devi travagliare, devi a ricordi suoi, no, scusami ancora. Cioè qua è così, qua quando sto lavorando io non voglio rotture di cuore. Devo lavorare, basta. Se succede qualcosa, cioè io posso capire, se succede qualche cosa di grave all'improvviso, allora va bene. Ok, ci siamo, è successo. Allora devo partire subito a vedere cosa è successo. Ma se io devo andare a lavorare, non voglio rotture di palle. Io devo andare a lavorare e basta, non posso occuparmi di tanti macchini. Questo poi io non posso fare, non sai, siamo una cosa avuto, quindi mi preoccupo tanto per lei, capito? Quindi non fa male, non esce a deambulare bene, capito? Potrebbe anche cadere in terra, magari me la trovo come l'altra volta. Mi è capitato, prima del ricoverso, ma non sono sceso, non sono sceso giù, l'avevo fatta solo, l'avevo trovata morta, l'ho recuperata io, ho chiamato immediatamente l'altro medico, c'era l'ambulanza, poi l'ambulanza ha chiamato l'altro medico, e hanno messo l'ossigeno, era la tua sopra, l'ho recuperata con l'ossigeno, l'hanno fatto il trattamento al cuore, ha avuto l'elettrocardia, qualcosa del genere, e gli è mancato l'ossigeno al cervello, hai capito? Quindi non è che io posso filare più di tanto. Ho capito il problema, ho capito. Un casino, Antonio. Un casino così. Purtroppo io questi problemi li so perché ho avuto gente malata a casa. È una tragedia. Te lo dico come un fratello più piccolo, un fratello maggiore non è possibile. È una tragedia queste cose così. È veramente una cosa incredibile. Sei sacrificato. Se non ho avuto problemi alla cosa, mi si è chiusa la vena in pratica che ha portato quel cervello a giugulare, capito? E quindi la sono trovata a casa che tutto un tratto respirava poco, il cuore batteva anche la metà di quello che batteva ormai, e quindi a un certo punto immediatamente ho chiamato prima il medico, poi l'ambulanza, ho chiamato il medico di base, poi l'ambulanza. La tratta via che con l'ossigeno lì, non è che erano messo una schiena di ossigeno e è rimasta in coma per più di una settimana, hai capito? Era più da che qua, non so, il padre santo l'abbia salvata, ma comunque sia, sono sempre spaventato, capito? Però sicuramente è un problema molto serio e pesante. Io non lo sapevo che c'erano questi problemi qua. È un problema molto serio e pesante, di un casino. Sai di che cosa parlo? È un casino niente, perché è sempre dietro l'angolo il problema. Capite? Tu lo dovresti sapere meglio di me. È sempre dietro l'angolo il problema. Capito? Già lo so, purtroppo è così. In realtà è sempre vigili adesso, c'è questa cosa, vabbè. Quello che ho avuto io nel Covid, l'ultimo vaccino me l'ha proprio rovinato, hai capito? Quindi l'ho capito anche io, ho avuto un trauma, mi ha detto. Una volta mi è sceso l'acido fulvico, il tubo dietro mi è sceso in testa, grazie a Dio mi ha preso di sbieco, quindi mi ha aperto la testa, meno male non ho sanguinato molto, sono andato vigile al pronto soccorso, mi hanno ucciso il portone, figurati. fatto facevo da, i controlli, anche queste sincopi che mi stanno capitando non sono mai capitato, non è che stato niente da tardi in vita mia, ma adesso ci stanno cominciando ogni tanto per dire esco, ci vediamo per dire, ci vediamo una vita assieme, siamo troppo, sono tranquillo, non sono ubriaco né niente, eccetera, eccetera, quindi mi metto a camminare, eccetera, per farmi la piedi, per muovere le gambe, eccetera, eccetera, a un certo punto, cazzo, mi sono trovato, cazzo, che andava a destra, a sinistra, cazzo, ho avuto se avevo in terra, ci avevo a posto, le gambe non c'erano più, hai capito? E a un certo punto ho detto, tu va a prendere, mi ha detto che insomma mi ha portato a casa e quindi dopo due o tre ore mi sono ripreso e mi sono andato a casa mia a dormire, stavo benissimo. E quindi adesso mi sto facendo controllare, non vorrei avere qualche problema, mi sono fatto controllare tutto, meno male problema di cuore non ne ho. L'unica cosa che c'ho è piccole quattro, ma quelle ci chiudiamo tutti a 50 anni e vengono, capito? Quando sei senza fare nulla, sei a casa, mangi roba glassa, carne, eccetera, eccetera, capito? E vengono a tutti. Lo so. Beh, Antonio, io ti devo lasciare, che è troppo stanco, devo andare a dormire un minuto, una cosa più. Ok, dai, ci sentiamo. Ciao. A meno che se io riprendo dal letto, cioè riprendo, attacco l'antenna e riprendo da là. Ok. Dai, ci siamo domani, ti lascio riposare tranquillo.